Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani e bentrovati a Salva Danaio. Negli ultimi anni sono stati scelti da un numero crescente di risparmiatori, mossi dalla ricerca di tranquillità anche a costo di avere remunerazioni molto contenute sul proprio risparmio, remunerazioni praticamente poco più che allineate ai tassi di riferimento della Banca Centrale Europea. Poi hanno cominciato a farsi largo offerte e rendimenti più interessanti in cambio però del vincolo del deposito, e queste sono proprio le ultime offerte commerciali più ricercate anche tra i risparmiatori. Oggi parliamo dei conti di deposito, tanto per capire quali sono le offerte del momento, quelle che riscuotono il maggior consenso fra i sottoscrittori, quali sono i motivi di appeal di questi conti, sono chiare le offerte del mercato, cosa cercano i sottoscrittori, anche perché appunto, come dicevamo, basta dare un'occhiata ai giornali finanziari, ma non solo, anche alla televisione, sono tante le promozioni, l'offerta è diventata eccezionalmente concorrenziale, ma proprio per questo rende più complicato il confronto anche per i clienti della banca. Oggi ci faremo dare qualche idea su come orientarsi anche in queste offerte dai diretti interessati, ai quali cercheremo ovviamente per onestà intellettuale di non parlare solo ed esclusivamente dei propri prodotti. Allora io ringrazio e saluto stamattina di essere con noi Luca Ferrarese, responsabile mercato privati del gruppo Banca Sella. Dottor Ferrarese, buongiorno e bentornata a Salva Danaio. Grazie professor Rosciani, buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Bentornato anche l'amministratore delegato di Banca IFIS, Giovanni Bossi, buongiorno. Buongiorno a tutti. E un benvenuto invece per la prima volta a Salva Danaio ad Agostino Sebastiani, responsabile commerciale di Banca Marche. Oggi oltre a banche diciamo un po' più note siamo andati anche a caccia di offerte commerciali fra le banche un po' più piccole, quelle un po' più radicate sul territorio. Dottor Sebastiani, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Naturalmente, come sempre, microfoni aperti ai nostri ascoltatori che possono farci delle domande all'800240024 oppure ci possono scrivere al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Un'occhiata alla borsa, e avete già sentito nel giornale radio quello che sta accadendo questa mattina, sono ben pimpanti gli indici del vecchio continente e trascurano, diciamo almeno dal punto di vista del mercato azionario, la situazione egiziana. Ieri c'era stato un pochino di più di preoccupazione, oggi invece non si avverte minimamente, almeno in borsa. Parigi più 0,9, Francoforte in rialzo di un punto, Londra più 0,76%, Milano più 0,80% sul FTSE MIB, oggi sugli scudi. Intanto i titoli che ieri per la situazione egiziana erano rimasti invece un po' in ombra proprio per la preoccupazione: Buzzi Unicem più 3,44%, Azimut più 2,54%, il petrolio, ne parlavamo nel giornale radio, gravita sui $100 al barile, almeno il Brent a Londra, e questo naturalmente porta su i titoli del greggio. Saipem più 2,35%, Deni guadagna l'1,97%, bene anche Telecom più 2,12, ancora su tutta la galassia Fiat, tutti i titoli del gruppo sono in rialzo di oltre un punto e mezzo, bene anche TOTS più 1,67, Enel più 1,27. In discesa invece ci sono diversi titoli del settore bancario: Monte dei Paschi perde il 3%, UBI Banca meno 1,45, Parmalat in ribasso di un punto. Oggi arrivano altre trimestrali, arriva Pfizer, ne sono arrivate tante dall'Europa, infine Infineon, il colosso dei chip tedesco, poi Deutsche Bank. Sono arrivati anche i dati di British Petroleum, che ha annunciato di aver subito una perdita netta nel 2010 di quasi 5 miliardi di dollari, ma ricordiamo intanto questa è la prima perdita annuale subita dalla compagnia petrolifera britannica dal 92, ma come sapete appunto gli oneri che il gruppo ha dovuto sopportare per la fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico dei mesi scorsi appunto sono stati pesantissimi, 40 miliardi di dollari che non potevano che farsi sentire appunto sul bilancio complessivo. Direi che possiamo lasciare la borsa, andare subito al tema di questa mattina. Diciamo che mediamente il loro segreto è stato, almeno in origine, la semplicità d'uso: si aprono in un battimaleno, non hanno quasi mai spese di sorta, a parte l'imposta di bollo, ma qualche banca si ripaga anche quella. Insomma, i conti di deposito continuano a riscontrare un grande consenso fra i risparmiatori italiani. Sentiamo perché. Parcheggiare la liquidità in modo sicuro, ricavandone comunque un rendimento interessante. Conti deposito, pronti controtermine e conti correnti ad alta remunerazione, negli anni si sono conquistati una buona fetta dei risparmi degli italiani, complici le turbolenze sui mercati, le tensioni sui titoli di Stato e non ultimo la recente ripresa dell'Euribor. La caccia ai nuovi clienti non è finita, anzi, continua ad arricchirsi con nuove iniziative e nuove proposte. Conto Arancio ha inaugurato il 2011 con una proposta che garantisce un tasso del 2,40% lordo per 12 mesi, per tutti i clienti, sia vecchi che nuovi, che possiedono entrambi i prodotti del gruppo, vale a dire il conto deposito e il conto corrente. Che Banca invece offre ai clienti del suo conto deposito un tasso del 2,50% lordo, ma solo sulle somme depositate per un anno. Gli interessi però sono anticipati. Paga subito anche conto Rendimax di Banca Ifis, che nelle scorse settimane ha lanciato il primo deposito a 18 mesi sul mercato italiano. La remunerazione in questo caso arriva al 3,33% lordo l'anno. Nel panorama dei conti deposito qualcuno va oltre la soglia del 3%. È il caso di WeBank, che paga il 3% lordo per somme vincolate a 12 mesi, ma la promozione è riservata soltanto ai nuovi clienti che aprono il conto entro l'8 aprile del 2011. È importante quindi aggiornarsi per muoversi tra le tante novità e offerte. Per giudicare la convenienza delle proposte, bisogna guardare al tasso di interesse applicato, sia in fase promozionale che in seguito. Molti infatti propongono elevati rendimenti solo per i primi mesi. Un'altra variabile riguarda la frequenza con cui vengono capitalizzati gli interessi, che può essere mensile, trimestrale, semestrale o anche annuale. Ci sono poi conti che garantiscono un risparmio maggiore, a condizione però che i risparmi restino vincolati per un determinato periodo di tempo. 800 24 0024 è il numero verde per i vostri interventi e se non volete intervenire in diretta ci potete scrivere al 349 238 6666. Allora, per essere carina e cortese, questa mattina direi di cominciare la nostra chiacchierata con chi a Salvadanaio non è mai intervenuto, per cui vado subito nelle Marche. Qualcuno dirà che sono in pieno conflitto di interessi, perché io che sono marchigiana lo racconto sempre, dottor Sebastiani, per cui penseranno che io vi ho invitato appunto perché naturalmente siete la banca della mia regione, così non è. Lo specifichiamo subito, ma solo perché appunto siamo andati un po' anche a cercare di verificare se anche tra le realtà territoriali un po' più modeste appunto dal punto di vista della distribuzione degli sportelli ci fosse anche interesse da parte dei risparmiatori verso questa tipologia di prodotto che negli ultimi anni ha preso campo, appunto ricordiamo per la esperienza di successo di NG Direct, e poi tutte le banche si sono mosse in questa direzione. Voi avete lanciato un conto proprio di recente, è partito il 27 gennaio il vostro deposito sicuro. Dottor Sebastiani, è già possibile dire come sta andando? Ma guardi, noi come ha già detto siamo andati in rete da lunedì scorso sostanzialmente anche con la comunicazione e devo dire che in due giorni abbiamo avuto parecchie registrazioni già al sito e molti mail di chiarimento. Non le so dire con esattezza ad oggi qual è stato il risultato in termini di raccolta. Però il fatto di aver pensato di mettere a disposizione della clientela un prodotto di questo tipo è stato motivato da che cosa? Avevate percepito appunto che ci fosse un'esigenza di questo genere? Ma assolutamente sì, diciamo che ci abbiamo un po' pensato rispetto a quello che è successo nel mercato, ma questo dipende un po' dalla nostra storia. Noi siamo una banca del territorio, siamo molto radicati nelle Marche e stiamo allargando la nostra presenza nelle regioni quali l'Emilia Romagna, il Lazio, l'Abruzzo e l'Umbria, quindi diciamo che è in questo momento che uno strumento del genere ci aiuta particolarmente. Il nostro obiettivo è sicuramente di allargare la gamma di prodotto. Non è l'unico canale di raccolta, evidentemente, vogliamo servire la clientela in aree dove non siamo presenti, con la rete tradizionale ovviamente, e al momento lo stiamo distribuendo solo per nuova clientela. Ecco, anche perché tra l'altro ha fatto bene a specificarlo, perché questa qualche volta è un'obiezione che viene mossa anche da chi è un cliente fedele del conto di deposito, che ha apprezzato da sempre un tipo di prodotto di risparmio, chiamiamolo così, di questo tipo, è che le promozioni sono sempre per i nuovi clienti e mai per i vecchi, però in questo caso voi appunto non sul tema del conto di deposito vi siete avventurati solo di recente, quindi magari questo è un problema che vi porrete fra qualche tempo. Vado a Giovanni Bossi, amministratore delegato di Banca Ifis, e poi dottor Sebastiani le faccio spiegare quali sono le condizioni di questo conto e che remunerazione soprattutto offrite, visto che i tassi di riferimento europei sono ancora molto bassi, siamo ancora appunto su livelli molto bassi all'1%, pertanto è chiaro che un'offerta appena di sopra di questo livello è sicuramente sempre interessante, però capire se è un conto vincolato o come funziona. Giovanni Bossi, Banca Ifis, questa banca invece ha fatto della propria attività è una banca alla quale non piace fare pubblicità. Questa è una cosa che dottor Bossi ci aveva con grande vigore raccontato l'altra volta. Loro hanno, come dire, il passaparola. Come fate a farvi conoscere, allora, dottore Bossi, il vostro Rendimax? Come fate a farlo così, anche metterlo a disposizione della clientela che magari vorrebbe avvicinarsi a voi? Dottoressa Rossani, devo dirle che i nostri clienti soddisfatti sono probabilmente il miglior testimonial del nostro Rendimax. Mm. Quindi molto passaparola, social network, web, quel poco di, non è che siamo del tutto estranei all'advertising, ma quel poco che facciamo lo facciamo sull'online. Ecco, è una scelta precisa che ha come obiettivo quello di restituire al cliente tutto quello che possiamo dare in termini di tasso di interesse. Riteniamo che il conto depositi, i conti deposito abbiano questa caratteristica, quella di avere un tasso di interesse che è interessante per il cliente. Vogliamo essere precisi e dare il massimo possibile in questa direzione, senza fare promozioni per nuovi clienti o per vecchi clienti. Mm-hmm. Noi siamo estranei anche a questo, non è una, è una scelta che è una scelta. Infatti, senti dottor Bossi, adesso per ritornare un po' anche al come dire, al discorso di partenza che facevo con il suo collega di Banca Marche, qual è il cliente tipo che ancora sta ricercando il conto di deposito? Poi andremo appunto anche alle condizioni che proporrete voi, come poi sentirò anche quelle del gruppo Sella, ma per capire in questo momento che cosa c'è di richiesta. C'è ancora incertezza relativamente all'andamento della borsa, oggi anche le obbligazioni sono diventate un porto non più sicuro come in passato, quindi chi è il cliente tipo che ricerca il conto di deposito? Beh, decisamente un cliente molto avverso al rischio, nel senso che preferisce ottenere un rendimento più contenuto di quello che teoricamente si potrebbe ricavare da investimenti più rischiosi, ma sobborcandosi evidentemente una dose di rischio. In questo caso invece siamo di fronte a clienti avversi al rischio che hanno una certa disponibilità finanziaria, a seconda dei casi, che decidano o meno di vincolarla per periodi che, per quanto vediamo sul mercato in questo momento, vanno dal mese ai 18 mesi, direi. Direi che non c'è una grande differenziazione per fasce d'età, non sono in condizione di dire se c'è anche che ci sia una predominanza. Molti si aspettano, visto che conti deposito sono online, che ci sia una predominanza di giovani. Non, è così. Non è così. Noi vediamo, abbiamo alcuni clienti che sono anche molto in là con l'età, anche oltre i 60 anni, in alcuni casi anche più spinti. Quindi sono clienti che hanno l'esigenza di tenersi delle somme disponibili o vincolarle per breve periodo, avversi al rischio, perché sanno di essere protetti dal fondo, oltre che dalla solidità delle banche, anche dal fondo interbancario. Che quindi si sentono garantiti sotto questo punto di vista, e sono soddisfatti di questo rendimento che tutto sommato è significativo, non è proprio è un buon rendimento, tutto sommato è buono, adesso oltre all'Euribor, superiore ai bot. Infatti anche la borsa ha ripreso, però magari chiaramente, non lo so, mettendo la medesima cifra in borsa da qui a tre mesi non si ha la certezza che magari si possa spuntare un 1,80% lordo con il conto di deposito, quantomeno questa certezza si ha. Poi può essere considerato un rendimento basso, di poco conto appunto, però a quantomeno è certo. Ferrarese, vado con lei alla seconda parte di Salvadanai, a questo punto le chiedo un attimo di pazienza. Peraltro abbiamo anche parzialmente risposto ad una prima domanda di un ascoltatore, Luca, che ci chiedeva se questi conti sono coperti dal fondo interbancario di tutela dei depositi. Certo, la rassicuro anch'io da questo punto di vista, poi magari andremo anche sul funzionamento del fondo interbancario, ma in ogni caso l'importante è sapere che anche su questi strumenti c'è questa copertura. E riprende Salvadanaio, che oggi affronta il tema del funzionamento dei conti di deposito, un funzionamento che è molto semplice. Questo è il motivo per il quale tanti risparmiatori negli ultimi anni hanno scelto di accantonare a volte anche somme rilevanti su questi prodotti, magari in attesa di capire se la borsa o le altre asset class, così si chiamano in gergo finanziario, prendessero una, come dire, direzione più precisa e quindi dessero maggiore fiducia anche ai risparmiatori, anche se per la verità appunto chi magari sceglie il conto di deposito lo fa per altre ragioni, non tanto perché cerca un prodotto di investimento quanto perché cerca, come dire, proprio un parcheggio, anche se magari di una certa durata, per il proprio proprio denaro e magari vuole anche liquidarlo in tempi rapidi, appunto senza invece dover sottostare molto spesso per esempio alle regole di disinvestimento di altri prodotti che sono a volte un po' più complicati. Detto questo, eravamo rimasti in sospeso con Luca Ferrarese, adesso responsabile mercato privati del gruppo Banca Sella. Loro in casa loro hanno appunto un prodotto che si chiama Websella, proprio il conto di deposito è questo, se non sbaglio, dottor Ferrarese. Ecco, però prima di andare alle condizioni anche del vostro conto, capire anche da voi insomma qual è il monitoraggio che ci può offrire rispetto alla vostra clientela, chi è che cerca ancora un prodotto di questo tipo e ancora chi non si fida di altre tipologie di prodotti di investimento? In parte, questa certamente è un'analisi che ha riguardato molto il 2010 in fase di instabilità nei mercati, instabilità tassi. Quello che stiamo vedendo in questo momento è certamente ancora una particolare simpatia, diciamo così, della clientela, e sono d'accordo anche sull'analisi di clientela la più variegata verso queste forme di risparmio. E quindi io catalogherei certamente il deposito vincolato nella fattispecie dei prodotti a risparmio. Si parcheggia una parte della liquidità con vincolo o meno temporale. In questo momento abbiamo verificato dal nostro osservatorio che peraltro le somme investite sono di taglio medio più basso rispetto al passato. Questo mi consente quindi di dare una seconda chiave di lettura, che anche in prospettiva 2011 e che è quello che stiamo verificando anche come linea guida, è quella per cui il cliente in questo momento sta verificando in effetti che l'Euribor comunque a 12 mesi sale, che le prospettive forse di particolare diciamo frenata anche dei mercati per il 2011 qualche soddisfazione potrebbero darla, per cui il nostro cliente chiede consulenza. Noi siamo banca a 360 gradi, quindi ci interessa poco proporre il deposito risparmio fino a se stesso, vogliamo rispondere alle esigenze della clientela nei termini di suggerire anche o a scadenza vincolo o comunque come forme alternative al risparmio, che quindi vanno verso più un'ottica magari di giusto bilanciamento tra rendimento della liquidità e investimento, e ben offrire quindi un tema di consulenza anche su altri prodotti che possono andare in parallelo al deposito medesimo. Cito ad esempio, abbiamo un conto, si chiama sconto bilanciato, il funzionamento è molto semplice, dice che il 50% della liquidità viene tenuta su un deposito e quindi ti dà un rendimento garantito, in questo momento fino al 3% in promozione, la rimanente parte del 50% va a essere investita su fondi comuni di investimento, in particolare in due categorie, una è l'obbligazionaria e una è la bilanciata, quindi non particolarmente sovraesposte su mercati azionari, certo, o emergenti. È un passo in più, diciamo, rispetto al tema del mero risparmio e quindi di totale avversione al rischio e rendimento certo, molte volte associato a un vincolo, che va in un'ottica invece chiaramente che va decisa col cliente, che va verificata in merito al corretto rischio rendimento, che va a testare quali possono essere anche diciamo le varie allocazioni di portafoglio e che quindi fornisce una fotografia del cliente a 360 gradi secondo tutte le sue esigenze. Quindi li si accontenta dal punto di vista diciamo della ricerca della tranquillità e della sicurezza, ma si apre anche loro come dire una finestra di opportunità sulle altre asset class, come dicevamo. La fermo, dottor Ferrarese. Tra l'altro c'è una domanda che è molto intelligente, quella di Patrizia, ed è la domanda ricorrente che appunto tutti gli ascoltatori o molti ascoltatori fanno ogni volta che affrontiamo questo argomento, e quindi ogni volta che ci capita appunto di spiegare il funzionamento dei conti di deposito o comunque le nuove offerte commerciali presenti sul mercato, gli ascoltatori si chiedono sì insomma ma come fanno queste banche, visto che sono remunerate loro stesse ai livelli di mercato, appunto a riconoscere alla loro clientela tassi di interesse nettamente superiori a quelli di mercato, loro dove investono? E adesso ci faremo spiegare appunto anche questo dai nostri interlocutori. Riprendo da Agostino Sebastiani di Banca Marca, appunto, che ci raccontava che sono partiti proprio di recente con il loro deposito sicuro e naturalmente per partire hanno dovuto sparare, come dire, un'offerta assolutamente irrinunciabile, dottor Sebastiani, perché voi proponete per i primi 6 mesi, per coloro che sottoscrivono il vostro prodotto entro la fine di marzo, un tasso di interesse del 3% lordo annuo, ma pur sempre il 3%, e così a spanne mi sembra il più alto sul mercato in questo momento. Lei cosa risponderebbe a Patrizia? Dunque guardi, intanto dico che la particolarità del nostro prodotto non è solo il rendimento, che chiaramente seguirà l'andamento dei mercati nel tempo, ma soprattutto l'assenza del vincolo. Quindi il nostro deposito sicuro non è, a differenza di tutta l'offerta che c'è in questo momento sul mercato, un deposito vincolato, ma è un banalissimo deposito in cui il cliente mette e toglie i soldi quando vuole e viene remunerato a quel tasso per il tempo in cui i soldi saranno depositati. È chiaro che per rispondere alla domanda dell'ascoltatrice io dico quello che siamo, noi siamo una banca che investe esclusivamente nella produzione, quindi la nostra clientela è una clientela che opera sul mercato, sono nell'industria, nel piccolo artigianato, e quindi diciamo che gli investimenti che facciamo sono remunerati pur tenendo conto di una dose di rischio a un livello di saggio che riesce a compensare il costo della provvista che noi faremo sotto questa forma di investimento. Ho visto noi che... non facciamo assolutamente finanziario. Benissimo, allora, ho visto che per poter aprire un conto di deposito dei vostri, dottor Sebastiani, però bisogna fare un versamento minimo di 5.000 euro. Sì, è vero, non solo un minimo, ma c'è anche un massimo, che è 1 milione di euro. Però vabbè, partiamo da... Diciamo che abbiamo voluto comunque definire il tipo di investimento su questo prodotto, 5.000 euro perché riteniamo che sia una cifra sotto la quale comunque un risparmiatore medio preferisce tenere i soldi sul proprio conto corrente della sua banca e quindi solo sopra quell'importo comincia a ragionare di avere una remunerazione adeguata e parametrata al risparmio che ha maturato. Giovanni Bossi, amministratore delegato di Banca IFIS. Per la verità, Patrizia, facendoci questa domanda, citava esattamente Rendimax o Banca Sella. Come possono dare interessi così alti? Dove investono queste banche i loro soldi? Insomma, lei che cosa ci risponde? Ma intanto che c'è da fare una riflessione molto rapida, ma un momento tecnico, su quanto costa oggi alle banche finanziarsi per periodi più lunghi del deposito a vista. E qui vediamo grandi banche italiane, grandissime banche italiane, che solo qualche settimana fa si sono approvvigionate per importi significativi sui mercati interbancari. Con costi che viaggiano attorno al 3%. Per cui lei dice a noi conviene di più fare raccolta in questa maniera attraverso la clientela, remunerarla un po' di più, è più vantaggioso per voi. Decisamente sì. Poi cosa fa Banca IFIS? Parlo ovviamente della banca che amministro, con il risparmio raccolto. Beh, noi siamo presenti nel settore delle piccole e medie imprese, e il nostro core business è quello di finanziare il capitale circolante delle piccole e medie imprese. Diamo supporto a migliaia di imprese in tutta Italia, anche all'estero, ma soprattutto in Italia. L'85% del nostro lavoro è domestico, li aiutiamo a finanziare il proprio lavoro, raccogliamo da molti singoli e prestiamo a tante imprese, imprese che creano quindi sistematicamente, diciamo, posti di lavoro. Al momento queste remunerazioni di cui abbiamo parlato sono sostenibili per voi. Allora, adesso andiamo anche alle ricette di Banca Sella. Peraltro mi interesserebbe anche capire invece come funzionano i depositi vincolati, perché poi anche ogni banca, lo spiegavamo nella nostra scheda, distribuisce appunto gli interessi che sono maturati nel frattempo o al termine del periodo del vincolo. C'è invece chi lo fa tutto in una volta alla fine dell'anno. Ci faremo spiegare anche queste dinamiche, perché sono diverse a seconda delle banche, quindi anche questo è un parametro che serve a fare evidentemente la scelta della banca che fa al caso nostro, del conto di deposito appunto che fa al caso nostro. Però vorrei sentire anche la domanda di Marino da Cuneo, poi su questa magari sollecito Luca Ferrarese di Banca Sella. Marino, buongiorno. Buondì. Senta, io dall'inizio della crisi ho utilizzato vari conti deposito, in particolare con Carige il conto.it, sì. Mi sono trovato sempre benissimo. Ora sto valutando il conto della Barclays, che offre il 3% libero per un anno, e ci può offrire anche le carte, insomma, oltre a essere un conto di deposito funziona, in realtà potrebbe funzionare anche come conto corrente tradizionale. Corrente. L'unica cosa che mi ha un po' così fatto pensare è che mentre tutti i conti di deposito sono soggetti al fondo governativo di protezione dei depositi italiano, quello della Berkeley se ricorre al fondo inglese. Ecco, questa è l'unica cosa che volevo chiedere un po' a voi. Che la capite. Rende incerta. Lo sa, Marino, che adesso, mentre lei mi stava facendo la domanda, è una cosa che io non mi ricordo. Peraltro non abbiamo i signori di Barclays, adesso questo non ce lo possiamo far confermare. Di sicuro so che, per esempio, ING Direct, pur essendo di casa madre olandese, risponde invece al fondo interbancario di tutela dei depositi. Adesso non voglio mettere in difficoltà i miei ospiti chiedendo sul funzionamento di altri. Dottor Ferrarese, lei ne sa niente, adesso so che lei parla dei prodotti di casa sua, però... Le branch dirette, quali ING Direct in genere decidono di aderire direttamente al fondo interbancario della country, quindi dello stato in cui decidono di operare, e difatti molte volte viene richiamato anche nella pubblicità. Di Barclays nel dettaglio dovrei verificare. Va bene, allora guardi, Marino, ci dia qualche minuto di tempo, adesso sguinzaglio Gaia Romani e questo lo andiamo a confermare magari cercando proprio il loro ufficio stampa. Se riusciamo le rispondiamo entro la fine della trasmissione. Allora 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Dottor Bossi di Banca IFIS, ce n'è una per lei che ci arriva da Stefano all'indirizzo salvadanaio@radio24.it e ci chiede: essendo Banca IFIS specializzata nel factoring, in momenti di crisi del settore per incapacità di rimborso non può capitare di diventare insomma una banca più rischiosa rispetto ad una tradizionale? Beh, credo che siano rischi che una banca prende in considerazione. Personalmente non lo credo minimamente. Siamo 25 anni che facciamo questo mestiere e sappiamo gestire i nostri rischi. Certo, in questi sono momenti in cui il mercato delle imprese fa più fatica, ma noi continuiamo ad essere una banca decisamente sana, a continuare a produrre i nostri profitti e stiamo bene. Il tema non mi sembra proprio di no. Allora, Ferrarese, torno da lei perché tra l'altro le ho fatto rispondere. Anzi, adesso andiamo ai suggerimenti perché è in viaggio, altrimenti la risposta di Ferrarese sarebbe telegrafica. La faccio preparare su questo, la faccio salire in cattedra e le faccio spiegare, visto che alcuni ascoltatori ce lo chiedono. Dice: avete parlato fino a questo momento, ma ce lo spiegate esattamente un conto di deposito in termini generali, come funziona? Davide, le faremo anche la ABC è un conto in cui metto i miei soldi e non posso prelevarli entro un certo periodo. No, funziona proprio esattamente al contrario. È il conto più libero che c'è, a meno che non si vincoli, ma anche se c'è il vincolo li si può naturalmente ritirare in anticipo, perdendo però gli eventuali interessi che si potrebbero maturare nel frattempo. A tra pochissimo. Allora, Luca Ferrarese, se la sente di salire in cattedra, di fare un po' il professore con noi? La parlantina non le manca, certo, per fare questo. Proviamo a spiegare bene senza fare il professore. Arriva una persona da voi a 20.000 euro e dice: io voglio la massima tranquillità su questi miei soldi e allora voglio aprire un conto di deposito, ma ancora non mi è chiaro il funzionamento di questo tipo di investimento, chiamiamolo così, e non è esattamente la definizione corretta, però insomma che cosa le spiega? Gli spiego innanzitutto che per noi e per lui non sarà un prodotto di investimento, ma in effetti, come abbiamo ripetuto, di risparmio, per iniziare anche proprio a specificare quali possono essere le esigenze dei clienti e vedere quale deve essere la giusta risposta. In secondo luogo, secondo me, le tre caratteristiche tipo che il cliente deve conoscere, che quindi vanno spiegate con chiarezza, sono: A. Cosa permette di fare il deposito vincolato o meno, e quindi nella sostanza un'operatività molto limitata e necessariamente quindi uno strumento che serve come salvadanaio, tra virgolette, per usare il termine trasmissione di cui siamo ospiti, ma per operatività di conto corrente a 360 gradi non è lo strumento adatto. Penso alle carte di pagamento, penso alla priorità in bonifici piuttosto che in titoli. Il secondo punto che il cliente deve aver chiaro riguarda non solo il tema del tasso, ma anche il tema del vincolo, qualora questo ci fosse. Per cui, si diceva correttamente prima, il cliente ha bisogno di prelevare degli importi per sue esigenze prima del vincolo e quindi della promessa fatta con la banca. Ciò gli è assolutamente possibile, quindi a questo punto di vista il disinvestimento è libero, ma deve accertarsi bene, quindi chiedere alla propria banca che cosa cambia nei termini della remunerazione. Esatto, quindi, però generalmente per esempio non ci sono penali, come per esempio chiudere un'assicurazione prima del tempo comporta appunto il pagamento di tutti gli oneri iniziali, no? Invece per il conto di deposito questo non esiste. Gli oneri non ci sono, al di là del bollo iniziale o altro, in media non ci sono. Le penali normalmente si configurano come una decurtazione più o meno ampia dal tasso di interesse promesso all'atto della sottoscrizione. Però, Le forme matematiche sono le più svariate, ci sono alcune che calcolano in funzione del tempo rispetto alla scadenza, altre che verificano una percentuale del tasso rispetto a quello definito, altre hanno un tasso in valore assoluto già definito, ecco, quindi qui diciamo le forme sono le più varie. Noi per esempio per chiarezza preferiamo spiegare al cliente che qualora egli abbia bisogno di queste somme, sulle somme prelevate ante scadenza avrà un quarto della remunerazione rispetto a quella pattuita, ecco, perché poi alla fine è abbastanza immediato come tipo di approccio. Benissimo. Il terzo punto che il cliente deve avere chiaro è che il deposito vincolato, visto quanto abbiamo detto poc'anzi, cioè che è un deposito come prodotto di risparmio e che ha scarsa flessibilità come utilizzo di conto, può essere spesso anche un prodotto di ingresso, e quindi in questa fattispecie per nuova raccolta, per nuova clientela, e consente poi di avvicinare altri prodotti, sempre in considerazione, questo va sempre chiarito bene, del profilo di rischio e dell'orizzonte temporale in cui il cliente medesimo vuole andare a gestire l'investimento o risparmio, ebbene può essere affiancato, dicevamo, da altri prodotti quali quelli che abbiamo accennato inizialmente. Esatto. Grazie a Luca Ferrarese. Allora, tra l'altro volevo ritornare solo per un secondo a Giovanni Bossi di Banca IFIS, perché prima ho detto che il nuovo conto di Banca delle Marche è una delle offerte più remunerative che sicuramente adesso ci sono sul mercato, perché riconosce il 3% annuo ai primi 6 mesi per coloro che lo sottoscrivono entro il 31 marzo del 2011. Poi ho visto che voi avete lanciato di recente invece un vincolo a 18 mesi che arriva al 3,33%. Dottor Bossi, sbaglio? È un vincolo del più oggi sì, molto elevato, il più elevato che c'è sul mercato, ed è anche il più lungo tra quelli presenti. Noi tra l'altro con una soglia di ingresso che è molto contenuta, perché è stata recentemente abbassata da 5.000 euro a 2.000 euro, che è l'attuale vincolo minimo su tutti i nostri depositi vincolati. Abbiamo il mese 1, 3, 6, 9, 12 mesi. Questo è un tasso di interesse elevato. Il nostro conto ha la caratteristica di avere il tasso di interesse, tutti i costi vincolati, i nostri conti vincolati hanno la caratteristica di avere tassi di interessi elevati, direi molto elevati, ma di essere non svincolabili prima della scadenza. Ah, ecco, quindi voi praticamente... Abbiamo fatto la scelta di orientarci verso clienti che consapevolmente decidono di vincolare le somme fino alla scadenza, e non possono chiedere. Questo è molto importante che si sappia, quindi va assolutamente precisato all'inizio del rapporto contrattuale, perché poi sennò ci sono delle sgradite sorprese, per cui quello è una cifra che va lì accantonata e la si deve dimenticare. Poi il tempo di dimenticanza comunque è molto breve, perché sono 6 mesi, al limite 12, però lo si deve sapere con grande chiarezza. Ho una domanda di un ascoltatore di Luciano da Chieti per Sebastiani, appunto, di Banca delle Marche. Luciano, buongiorno. Sì, buongiorno. Rapidissimo, grazie. Sì, volevo chiederle se la soglia d'ingresso dei 5.000 euro, se poi gli interessi sono calcolati anche su quei 5.000 euro oppure dai 5.000 euro in su. E poi dopo i 6 mesi che in pratica il conto corrente percepisco il 3%, quanti sono, a che tasso è calcolato? Allora, Luciano, aspetti lì, dottor Sebastiani. Allora, io verso 5.000 euro, poi naturalmente magari decido nel tempo di aumentare la cifra, appunto con dei versamenti per aumentare il deposito. Come si calcolano gli interessi, questo 3% lordo appunto che promettete? Dunque, guardi, noi calcoliamo l'interesse su tutta la cifra depositata, ovviamente, quindi 5.000 euro è solo la soglia di ingresso, ma l'interesse verrà riconosciuto su tutta la giacenza e anche sulle somme successive che vengono versate, e per tutto il tempo che resteranno all'interno del deposito, come dicevo prima, senza alcun vincolo e senza alcun tipo di costo, né di gestione né di bollo. Per rispondere alla seconda domanda, invece, dico che alla fine dei 6 mesi noi stiamo studiando sicuramente delle offerte alternative ai clienti, quindi pur avendo definito già che il tasso alla fine dei 6 mesi scenderà a 0,75, i clienti si dovranno aspettare una nostra proposta. E la capitalizzazione degli interessi nel nostro caso è annuale, e per chi va nel sito poi si renderà conto che però abbiamo messo una cosa abbastanza simpatica, che è un contatore per cui ogni giorno vengono indicati gli interessi lordi che il deposito ha maturato. Benissimo. Allora, senta, Banca delle Marche, per aprire deposito sicuro le chiedo se adesso ci fosse, paradossalmente, non lo so, un marchigiano che abita in Sicilia e volesse aprire per pura affetta appunto un conto di deposito, deve per forza venire in filiale o lo può fare anche attraverso internet, dottor Sebastiani? Guarda, il deposito sicuro si apre solo via internet. Ecco qua, vabbè, non l'avevamo detto all'inizio. Anzi, vorrei consigliare gli ascoltatori di visitare il nostro sito, perché abbiamo messo anche un'immagine abbastanza simpatica che rafforza un po' l'idea del deposito sicuro, e non dico altro. Andiamo a vedere, poi ci dice quanti click sono arrivati sul vostro sito dopo che è passato questo messaggio a Salvadanaio. Allora, io intanto abbiamo appunto appurato che il conto Barclays ha esclusivamente la copertura inglese, sono 62.000 euro a depositante, mentre per quello... euro sterline, Gaia? Perché dobbiamo verificare. Noi abbiamo trovato euro, ma adesso verifichiamo anche questo. Comunque, se fosse euro, è la metà praticamente di quanto invece garantisce il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi italiano, che garantisce per 103.000 euro. Poi naturalmente, se una banca fallisce deve rimborsare, questo ovviamente faccio un'ipotesi assolutamente impossibile, e deve naturalmente risarcire tutti quanti i clienti, è chiaro che non potrà farlo con tutto nello stesso momento, e quindi c'è anche un meccanismo appunto di risarcimento da parte del fondo, che è un po' complesso, ma noi ne avevamo parlato tanto nel momento della crisi finanziaria più terribile nell'autunno del 2008, e speriamo di non doverne più riparlare di questo appunto fondo interbancario. Noi stiamo andando verso la fine questa mattina, chissà quante altre cose ci sarebbero da dire, speriamo di aver accontentato con l'ABC sui conti di deposito tutti i nostri ascoltatori. Per tutte le domande che volete continuare a farci appunto, potete scriverci a salvadanaio@radio24.it. adesso abbiamo la nostra rubrica previdenziale. INPS, per saperne di più. Con l'INPS vi stiamo continuando a spiegare, a chiarire le parole della previdenza. Vi ricordo che lunedì prossimo torna a Salvadanaio il presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua, ma non abbiamo ancora scelto il tema da affrontare appunto insieme a voi, poi ve lo dirò naturalmente nei prossimi giorni. Il concetto che vi spieghiamo oggi è posizione contributiva unica. In caso di inizio dell'attività con dipendenti, e tranne casi particolari, i datori di lavoro hanno l'obbligo di chiedere una posizione contributiva unica, esclusivamente con modalità telematica. L'avvio dell'attività con contemporanea assunzione di personale dipendente dovrà essere trasmessa mediante la comunicazione unica al registro delle imprese. In caso di assunzione di lavoratori dipendenti successivamente all'avvio dell'attività, invece, il datore di lavoro potrà chiedere la costituzione della posizione contributiva unica, optando tra la comunicazione unica al registro delle imprese e la procedura telematica di iscrizione, denominata Comunicazione Unità Operativa Accentramento Contributivo, disponibile nei servizi online dell'INPS, riservati ad aziende, consulenti e professionisti. Speriamo di aver mantenuto questa mattina un tono equilibrato. Rispondo all'ascoltatore Ciro che dice: oddio, il conto dalla ING, qual è la normativa olandese a copertura? C'è quella italiana, Ciro, per questo conto, perché ING ha deciso appunto di sottoscrivere il Fondo Interbancario di Tutela di Depositi italiano. Io ringrazio Luca Ferrarese del gruppo Banca Sella, Giovanni Bossi, Banca IFIS, Agostino Sebastiani, Banca Marche, li ringrazio per essere stati con noi, per averci spiegato come sta andando in questo momento il mercato dei conti di deposito. Salvadanaio torna domani, nei prossimi giorni ci saranno con voi Simone Spezia e poi Roberta Pellegatta, perché io torno lunedì, e a voi tutti grazie per essere stati con noi, buona giornata.